Allora, io vi faccio un resoconto brevissimo di quello che queste persone stanno raccontando. Sono quattro, come dicevamo, stanno praticamente raccontando il tentativo di rimpatrio che è avvenuto nei loro confronti nei giorni scorsi, che era anche emerso dai giornali. Ci stanno raccontando quello che è successo. Il volo con cui avvengono le deportazioni, in questo caso per il Brasile, sono i voli civili dell'Alitalia, le minacce, le botte, tutto quello che succede nel mezzo di un aereo in partenza. Nei casi di queste persone, oltre alla loro ribellione, anche il comandante si è rifiutato di far partire l'aereo con questi ragazzi a bordo perché la situazione era pesantissima. Pugni in bocca, manette, minacce, calci, botte, mani alla gola, mettono le mani alla gola, chiudono il naso, mettono i cerotti in bocca e queste persone hanno rischiato, uno ha raccontato che ha rischiato di morire perché stava soffocando il suo caso, il caso di altre persone. Testimoni, come dire, ci sono perché sono le persone che erano sull'aereo e anche il comandante che si è rifiutato di far partire un volo in questo caso. Ecco, loro stanno raccontando, io sto registrando tutto per cui avremo modo di sentirlo in maniera anche esaustiva nei prossimi giorni. Sono stati prelevati dal CPT alle 6 di mattina, come spesso avviene, e tutti e quattro portati per prendere questo volo. Minacce, dicevamo, perché ovviamente dopo il rifiuto e la ribellione di sottrarsi a questa deportazione sono stati minacciati, uno in particolare, di ritornare lunedì in un altro aereo, però questa volta con un cerotto in bocca. Ecco, ripeto, sono cose che noi da tempo denunciamo, sappiamo, però vi assicuro che sentirvele raccontare fa veramente rabbrividire. Queste persone vengono maltrattate, vengono torturate perché prendere una persona per una gola, stringerla, chiuderle la bocca e chiuderle il naso è tortura, credo, per cui insomma una situazione pesantissima emerge da questi racconti, persone picchiate con pugni in faccia, che sporchi di sangue vengono velocemente ripulite una volta che devono rientrare nel CPT per far vedere che non è successo nulla. Ecco, questo brevemente Simo, il resoconto dei racconti. Stiamo continuando e poi vediamo anche con l'avvocato che cosa è possibile fare.